Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ancora un ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ormai possiamo contare i giorni, mancano una decina di giorni all'inizio delle scuole e torna per tutti i genitori, insomma, il problema del recupero dei libri, di tutta quella oggettistica che ne segue per mandare i nostri figli a scuola. Ah sì, Francesco, ma c'è un grandissimo fervore proprio alla vigilia di un grande evento, come solito ne seguono i preparativi, purtroppo tutti aspettano sempre un po' gli ultimi giorni, ma è anche vero che fino all'ultimo si spera di trovare anche il libro usato per fare un po' l'affare della giornata. In sintesi, anche quest'anno l'Adico ha voluto fare un monitoraggio di quanto costa mandare un figlio a scuola, anche per comprendere quelli che saranno gli sborsi che la famiglia dovrà sostenere in questi giorni, e certamente le cifre che ne sono uscite sono cifre che insomma sono rilevanti, e certamente al rientro delle ferie, per chi ha avuto la fortuna di poterle fare, inciderà non poco rispetto a quello che è un bilancio delle famiglie già fortemente falcidiato. Ecco, il riferimento è alle classi medie superiori, penso, perché fino alle elementari sappiamo i libri, bene o male, arrivano gratuitamente, no? Vengono passati. Sì, noi normalmente consideriamo non la scuola dell'obbligo, ma quella fascia di scuola che normalmente i ragazzi da 13 anni in su devono o decidono di proseguire, e poi praticamente parliamo delle scuole superiori. Anche quest'anno l'Adico ha fatto un censimento di quelli che sono appunto i costi dei libri, ed è venuto fuori sostanzialmente dei dati interessanti per quanto concerne appunto l'importo totale della spesa, che è suddiviso così: un figlio che va ai superiori grosso modo spenderà circa 350-360 euro di libri, poi abbiamo un costo di circa 80-100 euro per quanto riguarda i dizionari per chi va al liceo, ma bisogna tenere conto anche dei manuali, dei periti per chi faranno gli istituti tecnici. A questo importo dobbiamo ricordarci che si è già pagato la tassa di iscrizione, che normalmente tra contributo, tassa e roba è di circa 100 euro. A questo poi dobbiamo considerare il kit scolastico, che normalmente può variare dai 60 ai 120-140 euro a seconda che si voglia un kit griffato o meno, e con il kit si intende dallo zaino, il carrellino, all'agenda, l'astuccio, penne, quaderni, compasso, eccetera. E dopo, per ultimo, a volte non sempre valutato anche questo, c'è il costo dell'abbonamento, perché molti che dovranno venire da fuori città dovranno anche considerare questi famosi 54-56 euro al mese, o circa 350 annuali per chi decide di pagare l'unica soluzione, che messi assieme arrivano insomma intorno ai 700 euro annui. Sono soldi. Se poi uno di figli ne ha più di uno che vanno a scuola, questo va a moltiplicare le spese, le uscite di cassa, come dire, no? Purtroppo, come abbiamo detto, è un salasso questo che si presenta, ed è un salasso anche che arriva in un momento non favorevole per le famiglie. Purtroppo i consigli che possiamo dare certamente è quello di rivolgersi ai mercatini degli usati. Non è molto facile trovarli, perché anche qui dovrebbero esserci delle garanzie sulle pubblicazioni ogni 3 anni, perché scopriamo che ogni anno c'è sempre qualcosa di diverso e si fatica a trovare il libro adatto a quello dell'elenco, però normalmente sui mercatini si può risparmiare circa il 50% rispetto alla copertina. Certamente un 50% che aiuta notevolmente le famiglie, però il libro deve essere anche in buono stato, altrimenti si può spuntare anche qualcosina in più. Altre soluzioni, come qualcuno ha proposto di studiare sui tablet, sui computer, noi ne siamo proprio d'accordo fino in fondo, perché se anche questo strumento potrebbe far risparmiare, in realtà poi quell'attenzione non si rivela così efficace come quello di una sottolineatura di un testo o uno scarabocco che potrebbe esserci su un calcio una pagina. È dimostrato anche che alla fine non c'è neanche quel risparmio di carta, come tanti dicono, perché poi alla fine si tocca sempre stampare tutto quanto, per cui alla fine non c'è neanche un reale costo se consideriamo poi il toner o quant'altro. Certo, forse addirittura si spende qualche cosa di più con il tablet, e poi devi essere comunque sicuro di avere lo stesso carico con le batterie piene, eccetera, eccetera. Quindi una serie di altri problemi. Sì. No? E poi devi avere appunto la stampante, il toner, la connessione internet, le risme di carta, per cui alla fine penso che il miglior metodo sia quello tradizionale. L'augurio è. Vi invito anche gli studenti di darsi da fare subito in questi giorni, perché c'è il motto che primo arriva primo alloggia, purtroppo vige, e quindi in queste ore recarsi fuori dalle segreterie, fuori dalle scuole, e cercare di recuperare quei numeri di telefono adatti per poter trovare insomma qualche libro usato e poter le famiglie risparmiare rispetto a quelle che sono le cifre che abbiamo appena dato. Eh sì, si può risparmiare qualcosa, e bisogna darsi da fare, le possibilità ci sono, e anche le iniziative proprio di mercatini dell'usato dei libri scolastici anche. Quindi grazie al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, l'appuntamento è rinnovato alla settimana prossima. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.